Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, nostro appuntamento con i settimanali, mensili, italiani e anche stranieri. Capita qualche volta, sfogliando i settimanali, sfogliando i magazine, di trovare degli spunti interessanti, non solo negli articoli, tra gli articoli, ma anche tra le lettere che vengono inviate alle testate. È il caso, ad esempio, di Vanity Fair questa settimana. Vanity Fair riporta la lettera di una gheddafina. Con questo brutto neologismo sono state indicate le ragazze che appunto si sono impegnate ad accogliere il leader libico nelle scorse settimane qui in visita in Italia. Hanno fatto un po' da cornice alla visita del leader libico e sono state naturalmente molto prese di mira. Ci sono state poi anche delle polemiche molto forti dal punto di vista politico, però è interessante cogliere il punto di vista di chi era proprio lì. E scrive appunto Katia, questo è il nome con cui si firma a Vanity Fair: sono quella che i giornali hanno chiamato una gheddafina. Per tre volte, compreso un incontro non ufficiale, ho incontrato il leader libico e non me ne vergogno, ma non ne vado neppure fiera. L'altro giorno però mio padre è tornato dal lavoro ed era molto inquieto e triste perché, mentre discuteva con i colleghi della visita di Gheddafi a Roma, qualcuno di loro ha offeso noi ragazzi e ci ha dato delle escort. Immaginiamo che il termine forse non fosse proprio quello delle escort. Non voglio essere giudicata per ciò che non sono, scrive Katia. Io sono laureata con 106, sono disoccupata, per vivere devo ancora pesare sulle spalle dei genitori, per questo ho lavorato come commessa, come cameriera, come modella e come host. Per questo, assieme ad altre 500 ragazze, per lo più gradevoli, tutte laureate e disoccupate, ho ascoltato un monologo religioso che non condivido, come non lo condividono le altre. Avessi avuto un lavoro, non avrei mai partecipato a quell'evento. Ci hanno chiamato gheddafine, ma non si sono chiesti perché molte di noi, con tanto di laurea, fossero lì a elemosinare dei soldi. Il mio grido è di sdegno per un'Italia che non vede la precarietà lavorativa, per un paese che si ferma al quadretto delle ragazze piacenti e del vecchio leader e che non si accorge di essere diventato un circo, dove la disoccupazione quel giorno ha messo in scena una situazione di disagio. E allora è sempre interessante cogliere anche un punto di vista inatteso, come davvero era inatteso quello di Katia nella lettera Vanity Fair. Katia che dice: non sono stata orgogliosa di essere una cornice, un elemento di abbellimento per la visita di un leader, però ho anche dovuto farlo per ragioni puramente lavorative, per ragioni puramente economiche. Questa la se volete lo spunto polemico lanciato da Katia. Un altro spunto polemico, ma di tutt'altro genere, viene invece in modo inatteso forse da Sorrisi e Canzoni TV, perché c'è il responsabile del coro dell'Antoniano, come sapete, colui che si occupa dello Zecchino d'Oro, la più nota, la più storica trasmissione di canzoni per bambini, che si scaglia contro alcuni programmi fatti con i bambini e lancia proprio questa distinzione: programmi per i bambini, programmi con i bambini. E in qualche modo questo con non è dato in maniera amichevole proprio da questo responsabile. Allora vi leggo qualche passaggio dell'articolo di Bice Colarossi. Queste dichiarazioni sono quelle di Frate Caspoli. Nella sede dell'Antoniano di Bologna dice: pochi giorni fa si sono ritrovati i 13 interpreti delle canzoni in gara al 53esimo Zecchino d'Oro, che sarà in onda poi su Rai 1 a novembre, dal 16 al 20 novembre. E Sorrisi ha raccolto gli sfoghi di chi assiste al proliferare di mini cantanti in TV con Io canto e ti lascio una canzone e non apprezza. E infatti Frate Alessandro Caspoli, che è il direttore dell'Antoniano di Bologna e presiede la giuria dello Zecchino d'Oro, dice: le nostre canzoni sono scritte per i bambini, negli altri show invece i piccoli si misurano con brani da adulti. Qua c'è il programma dei bambini, là programmi con i bambini. E prosegue ancora Frate Caspoli: cosa può puoi capire un ragazzino di storie di amanti, tradimenti o altro, probabilmente non farà caso al testo. Allora, la sua è una semplice, sebbene ottima, esecuzione, ma sembra passare il messaggio che conta di più come dici una cosa e non che cosa dici. All'Antoniano reputano più rispettoso dell'infanzia a cantare la lumaca Elisabetta anziché Destinazione Paradiso, in generale non essere costretti a fare i grandi. Questo è lo spunto polemico in qualche modo, ma anche centrato a nostro giudizio, di Frate Caspoli. Lo trovate su Sorrisi e Canzoni TV di questa settimana. E allora, restiamo in tema musicale, ma cambiamo paese, cambiamo anche lingua, cambiamo testata, passiamo a Newsweek, perché da Newsweek questa settimana si apprende che in Russia sta prendendo piede, sta facendosi largo una protesta che viene fatta con la musica, con il rock and roll. Ci sono dei cantanti che sono particolarmente famosi, naturalmente non riescono a esibirsi come dovrebbero, spesso suonano appunto nelle piazze, in raduni improvvisati, però pare stiano dando abbastanza fastidio con le loro canzoni di protesta, e quindi in questo modo il rock and roll ritrova un po' un impegno civile. Il racconto di Anna Nepsova, probabilmente da Newsweek, spiega appunto di un recente concerto, si fa per dire, insomma, di un recente raduno tenutosi a Mosca, tra i più seguiti un rocker che si chiama Yuri Shevchuk, e Yuri Shevchuk appunto è molto polemico nei confronti delle autorità. Dice: c'è così tanta verità che brilla negli occhi delle prostitute ufficiali, è uno dei versi di una sua canzone, e si è permesso anche questo cantante di contraddire Putin in un confronto, chiedendogli cosa ne facciamo di cosa parliamo quando parliamo di libertà di stampa, libertà di informazione, perché quello che sta accadendo sembra più assomigliare al sistema feudale che avevamo 1000 anni fa. Con queste parole ha aggredito appunto il presidente Putin. Ci sono poi altri cantanti che portano avanti queste proteste, anche loro con testi molto impegnati, molto aggressivi nei confronti del potere. E tra l'altro, segnala proprio Newsweek, questa protesta in musica sembra avere un impatto, perché sulla piazza 3.000 persone, in questa ultima occasione di cui la Nepsova riferisce, 3.000 persone hanno firmato una petizione chiedendo che il governo rinunciasse al proposito di abbattere una certa foresta, e dopo poco effettivamente è stato ordinato lo stop all'abbattimento, e quindi secondo alcuni sondaggi questa decisione sarebbe stata presa proprio in forza di quel concerto, di quell'impegno rock tenuto sulla piazza di Mosca. Allora, abbiamo ancora qualche momento prima di lasciarvi le informazioni sul traffico. Allora, io volevo parlarvi di Il, come sapete, è il mensile del Sole 24 Ore. Lo trovate in edicola con Il Sole 24 Ore. Il numero di questo mese ha una serie molto cospicua di articoli, tutti che ruotano attorno al tema dell'ambiente, ad esempio dell'ambiente delle nostre città, e c'è anche una intervista con Jamie Lerner, che è un urbanista ma che è stato anche poi sindaco e governatore a Curitiba, capitale del Paraná. E la storia di come lui pensa di modificare le città, di come ha provato a modificare la sua città, la città dove è stato sindaco, per renderla più vivibile, la trovate su Il, che appunto è in edicola con il Sole 24 Ore. Tra l'altro, tra i suoi consigli c'è anche stata la distribuzione, tra le sue iniziative, la distribuzione di generi alimentari contro sacchi di spazzatura da riciclare, cioè chi forniva rifiuti da riciclare veniva in qualche modo premiato, incentivato con dei sacchetti di generi alimentari. È stato uno stratagemma per ripulire le strade dei quartieri più difficili e ha funzionato. Ecco, proprio da lui però viene una battuta che va a pennello per fermarci un attimo e parlare delle informazioni sul traffico, perché dice Lerner: le automobili sono come le suocere, non se ne può fare a meno, ma non ci si può nemmeno convivere. Allora bisogna passarci il minor tempo possibile. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Parliamo di un luogo comune da sfatare, quello che vorrebbe appunto le donne bionde più svampite di quelle con i capelli scuri o rossi o insomma di capelli non biondi. Perché ve lo dico? Perché ho trovato su Grazia questa settimana la segnalazione di una ricerca dell'Università di Queensland, che è un'università australiana, che peraltro ha pubblicato i risultati di questo suo lavoro su una rivista accademica. La rivista si chiama Economic Letters. Dovete, forse per apprezzare al meglio questa notizia, che dice che le donne bionde guadagnano più della media e sposano anche uomini più ricchi, per apprezzare, ripeto, al meglio questa notizia, bisogna anche sapere che, specialmente nei paesi di lingua inglese o negli Stati Uniti, proprio alle bionde, come si dice, sono dedicate anche delle storielle che vogliono mettere in luce, diciamo, la loro estrema ingenuità, per dirla con un termine gentile. Ecco, tutto questo però sarebbe un colossale abbaglio. Perché? Perché leggo da appunto Grazia il lavoro della collega Cometto, che dice: bionda uguale stupida, lo stereotipo con cui spesso sono bollate le ragazze dai capelli d'oro non regge alla prova della realtà. Non solo le bionde si divertono di più, come cantava Rod Stewart, ma secondo appunto uno studio dei ricercatori dell'Università di Queensland hanno anche più successo nel lavoro e in amore. Guadagnano infatti il 7% in più delle donne dai capelli neri, rossi o castani, sposano uomini più facoltosi, che a loro volta guadagnano in media il 6% in più dei mariti delle altre. Fa una bella differenza complessiva di reddito a disposizione, viene da dire. Il professor David Johnson, che è il responsabile della ricerca condotta su un campione di 13.000 donne, non sa dare una spiegazione scientifica, ma giura che i dati sono corretti. A parità di peso, altezza, età, istruzione, la differenza, secondo lui, la fa il colore dei capelli. Perché questi mariti delle donne bionde guadagnerebbero di più? Lo spiega così: abbiamo mariti più ricchi perché siamo più estroverse, piacciamo di più agli uomini, quindi piacendo di più agli uomini trovano degli uomini, come dire, che poi guadagnano di più, hanno migliori prospettive di guadagno. La presidentessa dell'Associazione Internazionale delle Bionde, non sapevo ci fosse, ma invece c'è, e c'è anche una presidente, si chiama Olga Uskova, scherza dicendo: andiamo fortissimo anche sul lavoro, perché quando sbagliamo possiamo dire: oh, mi dispiace, è perché sono bionda, e quindi in questo modo farla franca. Un veloce esame poi delle donne più famose e più ricche del mondo, non solo nello show business, conferma che al top le platinate vincono. La più pagata tra i manager, anche maschi, è un'americana, si chiama Carol Bartz di Yahoo. L'anno scorso ha guadagnato 47,2 milioni di dollari. La scrittrice più ricca è Joanne Rowling, è l'autrice di Harry Potter, della saga di Harry Potter, ha un patrimonio di 1 miliardo di dollari ed è bionda pure lei. Ci sono le foto poi a corredo di questo articolo che testimoniano lo stato biondo di queste signore. La donna più ricca del mondo è un'americana, Christy Walton, ha ereditato dal marito, fondatore della catena di ipermercati Walmart, una fortuna di 21,5 miliardi di dollari. Tutte e tre queste signore sono bionde. In realtà poi ci sarebbe anche il titolo di celebrità più potente, più influente, secondo Forbes va a Oprah Winfrey, che ha poi 315 milioni di dollari, è la diva dello spettacolo più pagata al mondo e sicuramente non è bionda. Si chiede, come la commento simpaticamente, sarà un'eccezione che conferma la regola. Veniamo ad un argomento più serio, meno leggero, insomma, di questa distinzione o garanzia di successo in base al colore dei capelli. Peraltro appunto le signore sono anche use a cambiare spesso il colore dei capelli, quindi c'è da chiedersi come i ricercatori abbiano tenuto in debito conto questo dato. Veniamo invece a un fatto più serio. Forse avrete sentito nei giorni scorsi questa affermazione polemica di Enzo Boschi. Enzo Boschi è il direttore dell'Istituto Nazionale di geofisica e di vulcanologia, e ha detto: stiamo pensando di non rendere più raggiungibili i nostri dati, perché i nostri dati sui terremoti vengono poi usati per conclusioni che non stanno né in cielo né in terra, e quindi poi il sottinteso era: creano allarmismi, creano degli allarmismi ingiustificati. Famiglia Cristiana, nel numero di questa settimana ha messo a confronto due posizioni opposte, lo ha fatto il collega Antonio San Francesco, da una parte Mauro Rosi che insegna fisica del vulcanismo a Pisa, dall'altra Mario Tozzi, ricercatore del CNR, e ha chiesto: è giusto o non è giusto silenziare i dati, mettere appunto il bavaglio a questi dati per evitare che siano usati male? Il professor Rosi condivide questa posizione, dice: lo condivido perché mi sembra diretta a tutti coloro i quali nei media e nella comunità scientifica non si pongono in modo corretto di fronte alle informazioni scientifiche. Le previsioni sui terremoti, come ogni previsione che riguarda fenomeni naturali, sono segnate da incertezza. Anche se utilizziamo strumenti molto più sofisticati che in passato, la complessità non ci consente previsioni sicure. Per questo è meglio che queste informazioni non finiscano in quello che lui chiama tritacarne mediatico, con distorsioni e strumentalizzazioni enormi e inaccettabili. Questa è la posizione di Mauro Rosi. Tozzi è di tutt'altro parere, dice: ma questa è una buttata, in realtà in nessuna parte del mondo gli istituti si preoccupano di che fine fanno i propri dati, il compito istituzionale degli istituti è quello di fornire le informazioni alla comunità e ai cittadini e basta, quindi come vengano poi utilizzati i dati non è un problema che deve preoccupare gli istituti. Se l'istituto di geofisica ritiene che le sue informazioni vengano male interpretate o stravolte, allora si doti di un media lab che gestisca i rapporti con l'esterno. Lo fanno da tempo il CERN di Ginevra o l'MIT di Boston. Questa è la posizione completamente diversa di Mario Tozzi. Quindi le cose vanno poi dette, si tratta di saperle gestire. Questa è la segnalazione da parte di Tozzi su Famiglia Cristiana di questa settimana. E concludiamo questa nostra puntata con un consiglio leggero, un museo davvero molto particolare, l'ho scoperto da una segnalazione di Two Style di questa settimana. C'è un museo della calzatura, sta a Firenze in via Tornabuoni, ed è un museo che è stato messo a punto da Salvatore Ferragamo, che è poi conosciuto come il calzolaio delle dive, così spiega appunto Two Style. Ospita circa 200 paia di scarpe dell'archivio Ferragamo, tra cui le décolleté interamente coperte di strass rossi che furono indossate da Marilyn Monroe nel film Facciamo l'amore. Le attrici di Hollywood si mettevano in fila per conquistare un suo paio di scarpe. Ecco, tutto questo è in un museo a Firenze, ripeto, in via Tornabuoni, davvero un museo fuori dal comune. E con questa segnalazione concludiamo la nostra puntata di Magazine 24. Grazie mille a Roberto Scaltritti questa mattina in regia, grazie come sempre a Margherita Aina, grazie ad Anita Panizza che mi aiutano a preparare questo programma. Se volete risentire questo programma, tutti i nostri programmi, avere informazioni su di noi, andate sul sito www.radio24.it. Magazine 24 torna in onda sabato prossimo. Buona domenica.